si yo viene el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Signore, signori, questa sera caccia grossa a quella balena bianca che si chiama Moby Dick, che la fa da protagonista nel romanzo ma celeberrimo di Melville, perseguitata com'è dal coraggiosissimo capitano Hakam. Però noi questa sera trattiamo del tema se siamo noi altri italiani coraggiosi o no, o se siamo coraggiosi, vigliacchi in un modo particolare. Su questo problema siamo ambivalenti. E lo sono anch'io in questo momento, non so se sono coraggioso o incosciente, chi lo sa? Chi lo sa? È il risultato che risponderà a questa domanda. Allora proviamo a chiederlo a Marcel Padovani che... Momento, qui faccio un'obiezione pregiudiziale. La signora Padovani... Non sono particolarmente propenso a fare coccodrilli, a fare trasmissioni rievocative, a parlare a babbo morto, come suol dirsi, dei meriti e le qualità di una persona. Per oggi prendo con piacere e con anche dispiacere l'occasione della comune, del comune ricordo che stanno facendo tutti i giornali e tutti i colleghi delle radio e delle televisioni di Beniamino Placido per parlare di televisione. Beniamino Placido fu un personaggio appartenente per diritto al mondo della cultura, dell'analisi critica, prestato per alcuni anni alla televisione, scomparso nella giornata di ieri e oggi ricordato su tutti i giornali proprio per la sua attività di analista quotidiano della televisione. Analista, Placido sdoganò notevolmente quella che era l'austera e impacchettata critica televisiva, che considerava che alcuni personaggi appartenenti a una classe sacerdotale con strumenti mistici e tecnologici indecifrabili ogni giorno decidessero cosa fosse da guardare e da non guardare la televisione, cosa facesse male al telespettatore, cosa invece potesse essere considerato edificante per la propria formazione, per la propria compattezza spirituale. Placido guardava la televisione con un occhio molto più disincantato, faceva continui riferimenti, parallelismi tra il mondo della letteratura, della poesia, del pensiero, dell'attualità e gli accadimenti televisivi. Io per tanti anni osservavo e raccontavo la televisione alla radio, l'ho fatto anche a questi microfoni fino a non molto tempo fa, e mi sono molto ispirato al suo metodo. Mi piaceva l'idea di vedere nella televisione una sorta di universo simbolico nel quale venivano dati dei baluginì di quello che fosse lo scorrere e l'articolarsi dei rapporti tra gli uomini, delle domande che collettivamente ci si faceva senza nemmeno dirsele direttamente, di alcuni tipi che emergevano particolarissimi nell'universo televisivo, a volte spontaneamente, a volte al di fuori dei ranghi ufficiali, che determinavano l'emergere di una tipologia umana ben più allargata nel contesto sociale. Placido ebbe la fortuna di analizzare la televisione in quello che secondo me era il periodo più felice della televisione italiana, un periodo di forte cortocircuito in cui la televisione monocratica, inattaccabile della classe sacerdotale, quasi faraonica, dei padri fondatori della televisione, cominciava ad avere qualche piccolo scossone. Emergevano dei televisivi non di rango, non di razza, ma fortemente legati a quelle che erano le esigenze del momento. C'era una sana concorrenza tra reti televisive, tra editori televisivi. C'è un momento di grande creatività in cui la televisione apriva anche i suoi spazi, la televisione cominciava a sforare gli orari meridiani, la televisione era l'ora di colazione, Raffaella Carrà doveva intrattenere le signore italiane mentre soffriggevano la cipolla, e il pomeriggio avevamo dei meravigliosi scenari che di cui gli echi più pallidi oggi sono i programmi post-Cucuzzari, sono i programmi di Sposini, sono questi pomeriggi con grandi personaggi da promuovere, con grandi fatti di cronaca da eviscerare. Ma allora c'era la meravigliosa televisione dei santi, dei mistici, dei miracoli, degli sbudellamenti, iniziata da Vigorelli, ma ancora prima c'erano anche altre persone. Insomma, poi apparve il grande fenomeno di Funari, la politica cominciò a trovare un rapporto più pecoreccio con la televisione, meno ufficiale, i politici cominciarono a sporcarsi le scarpe anche con gli aspetti più popolari della televisione. Insomma, la televisione era un grande crogiolo di novità, sembrava la televisione fosse diventata centrale nello sviluppo culturale italiano. Poi accadde qualcosa: una decina di anni fa il pubblico della televisione cominciò a smettere di considerare questo medium come un mezzo per leggere e decifrare alcuni messaggi non facilmente percepibili nei mezzi di diffusione del sapere più ufficiali, e diventò un fine. Quindi cominciò cominciò la transumanza lenta ma inesorabile dell'essere umano telespettatore verso l'essere umano protagonista della televisione. La televisione diventa reality show e diventa tutta un'altra cosa. Beh, questa mattina vorrei chiamare il pubblico a riflettere appunto su questa centralità della televisione. La televisione viene guardata, chi la guarda non confessa mai il proprio peccato di catalessi postprandiale, di stravaccamento sul divano, di lento accompagnare al momento della quiete, al momento del sonno, ma dice che guarda soltanto i bei programmi culturali, quei documentari che tanto fanno bene alla nostra intelligenza. Ma in realtà la televisione oggi non è nemmeno più quella meravigliosa e orripilante piega di mostrare gli aspetti più terrificanti dell'umanità, l'esposizione del caso umano, l'andare a toccare in fondo quelli che erano i punti nevralgici dell'abiezione umana. No, è soltanto una grande melassa in cui alcuni signori che sono trovati per meriti non certo professionali o artistici a gestire gli spazi dell'immaginario ne fanno terra di conquista. Oggi, come mi sono già espresso questa mattina sul mio giornale, la televisione non ha più bisogno di poeti, di letterati, di analisti, di specializzati che ne guardino e ne osservino gli aspetti simbolici, come la ruspice guardava le viscere di un animale per capire quale sarebbe stato il segno del destino, ma dei buoni agenti immobiliari che ne illustrano l'abitabilità sono più che sufficienti per capire cosa sia la televisione. Sono stufo di insulti gratuiti. E questi li posso accettare, perché se Beniamino Placido non piaccio, lui è libero di dare un giudizio, ma quando si danno dei dati, occhio. Cari signori che protestate, loro e voi a casa, in questa trasmissione, di cui io sono autore e conduttore, potete dire quello che volete finché ci sto io. Tra i tanti coccodrilleschi ricordi su Beniamino Placido c'è quello di Angelo Guglielmi, il mitologico e forse anche in parte ipervalutato direttore della famosa Rai 3 negli anni d'oro, che disse che aveva in mente un programma in cui questo straordinario mix che tanto piaceva alle intelligenze di allora, di cui ho il massimo rispetto vedendo poi le intelligenze che sono seguite a quelle lì, avrebbe pensato un programma meraviglioso secondo lui in cui Funari e Beniamino Placido sarebbero contrapposti, la raffinatezza, la cultura, l'occhio strizzato all'osservazione un po' distaccata rispetto al grande fenomeno popolare, e il Sor Gianfranco, colui che nella televisione ci si infilava bene tirandosi infilandosi dentro nel fango fino al collo, che ha creato comunque una forte rivoluzione nell'osservazione della televisione, nel rapporto tra televisione e pubblico, nel rapporto tra televisione e mondo ufficiale. Non si fece mai questo connubio, ma forse fu una grande fortuna per entrambi, e perché Funari quel tempo prese il primo favoloso contratto con le televisioni commerciali e quindi approdò da altre parti. Questa mattina, assieme al pubblico, che invito da ora a chiamare all'800 24 0024 senza particolari cognizioni, senza particolari esperienze, senza particolari alfabetizzazioni, parlate semplicemente del vostro rapporto con la televisione, contemporaneo rapporto con la televisione e quanto è cambiato soltanto negli ultimi 10 anni. Intanto presento l'ospite con studio, Luca Martera, buongiorno, autore televisivo, regista, lo conosciamo perché già più volte è stato ai nostri microfoni. Luca, tu segui la televisione come sommo archivista, nella tua attività di autore di programmi e di regista cinematografico comunque hai una particolare sensibilità nell'andare a reperire gli aspetti più dimenticati della televisione. Dicevi che oggi però il tuo lavoro è molto semplificato. Sì, perché la caccia ai tartufi è praticamente inutile. Nel 2005 è nato YouTube, che si può considerare la più grande biblioteca di Babele mai prodotta dall'umanità, e sto parlando di biblioteca per immagini, e mai sinora si era arrivati ad un livello così di disposizione, di disponibilità di immagini, suoni, parole modificate o integrali, omesse, censurate, in tutte le salse. Quindi quello che una volta era l'aspetto professionale del critico televisivo, figura che oggi sembra quasi un po' appartenente a liturgie passate, che senso ha più oggi criticare la televisione? La televisione, abbiamo sempre detto e sostenuto, che già in sé ha la caratteristica del mostro alieno dei vecchi film di fantascienza, più non ne parla male, più la rafforza, più dà motivo di esistere, ma oggi non ha più senso nemmeno a dire quale sia il discrimine fra la televisione da guardare e da non guardare. La televisione è un flusso continuo e ininterrotto. Dicevo però, gli strumenti professionali dell'analista televisione erano una grande memoria storica e un grande archivio di appunti sulla televisione del passato. Oggi la televisione del passato si mixa in maniera formidabile alla televisione contemporanea attraverso la rete, quindi tutti abbiamo possibilità di vedere cose che non ci appartengono generazionalmente. Il problema è quello che alcuni mass mediologi hanno definito infotension, cioè la capacità di distinguere le sciocchezze dalle cose interessanti, e per questo ci vuole la classica formazione di base che molti non hanno, perché tu ti ritrovi davvero un secolo di immagini su YouTube e se non hai l'abecedario davvero ti perdi, anche perché stiamo parlando di materiali storici, autentici, mischiati a, appunto al solito filmato del gattino sullo skateboard. Esiste però una nostra memoria individuale, e su questo invito a chiamare all'800240024, legata a alcune fasi della televisione. Oggi noi ragazzi degli anni 50 ricordiamo la nostra componente quasi genetica in un rapporto costante, quotidiano, che scandiva il nostro tempo con il televisore acceso o il televisore spento. Poi c'è stata l'epoca dei primi telefilm americani importati, poi i primi cartoni animati, poi le seconde generazioni di cartoni animati, i pessimi, cattivissimi cartoni giapponesi, poi c'è stata l'epoca più vicina alla contemporaneità di altre serie di telefilm, di altri personaggi, poi la televisione di Italia 1, per arrivare alle ultime generazioni che spezzettano la loro giornata in uno zapping che riempie il tempo libero attraverso telefilm di serie americane, telefilm su manga giapponesi e altre amenità di tipo vario, o sotto reality di poco prezzo su i rapporti di coppia, i maestri di sesso, i detentori di case di appuntamento e via dicendo. Fa parte della fascia notturna che è l'anticamera della televisione, quella innominabile, che in realtà fa la vera fortuna dei canali satellitari. Beh, oggi non esiste più questo fatto, Luca, esiste una possibilità di lambire, di essere contaminati con tutta la televisione di tutte le epoche possibili e immaginabili. E questo crea non solo un cortocircuito, ma una grandissima confusione, anche se per gli addetti ai lavori può essere interessante notare come vengono affrontati certi fenomeni da, ad esempio, all'estero. Ieri mi è capitato di vedere un documentario su Moro americano in cui non mancano i soliti riferimenti oltraggiosi e stereotipati alla nostra cultura tutta pizza, mafia e spaghetti, infilati a bella posta in un documentario serissimo su Moro. Però questo mi ha colpito per il fatto che rimaniamo una provincia dell'impero. Ma quello che dicevi tu è che oggi solo i telemorenti, cioè quelli che proprio per ragioni anagrafiche sono destinati a, come dire, che sono nati con la TV tradizionale, sono gli ultimi spettatori, perché i nativi digitali non hanno assolutamente idea di cosa sia l'appuntamento. Perché dovrei mettermi alle 21 davanti alla TV a vedere il programma che poi sarà oggetto di analisi Auditel e non di analisi critiche come faceva Placido il giorno dopo? Esattamente questo, io ho dei figli in età quasi adolescenziale, vedo che per loro la televisione è uno dei tanti motivi di riempire i tempi liberi, quando non c'è la PlayStation, quando non ci sono gli amici, non ci sono le palestre, non ci sono le cose, beh, un quarto d'ora, 20 minuti mi guardo la televisione, ma non è che a quell'ora la guardo quando ho tempo di guardarla. Ma ai tempi di Placido ci fu un momento in cui la televisione divenne, avevamo l'impressione che fosse una sorta di intrattenimento che metteva assieme una visione alta dell'attualità e una visione bassa. Ricordo le prime soap che venivano viste anche negli uffici del terziario avanzato e poi venivano commentate nei corridoi dei piani alti della Rai. Il primo pomeriggio tutti guardavano Beautiful e poi ne parlavano, e sentivano di respirare la stessa area del basso popolo che magari disprezzavano, quindi la televisione ha questo carattere unificatorio. Oggi non esiste più nulla di tutto questo, quindi a cosa servirebbe oggi dire un'analisi quotidiana e costante di un fenomeno televisivo? Di cosa potrebbe parlare oggi un critico? A parte i dati d'ascolto, prima abbiamo sentito Funari. Funari ha definito la TV come la merda, perché è meglio farla che guardarla. Un critico si trova in... Fu una profezia mirabolante, oggi tutti lo pensano. No, la ragione più che Placido, a me viene in mente uno come Sergio Saviane, che tra l'altro è stato proprio dimenticato del tutto, perché la sua ironia graffiante, ecco, quella non pagava, quella di Placido sì. Magari chiediamoci che differenza c'è tra i due metodi, perché quella di Saviane era un bestiario ante litteram della televisione, dove la marmellata a cui facevi riferimento tu, politica, spettacolo, giornalismo, era tutto già... Ma perché essere lambiti da Placido gratificava. Ieri la Parietti alle agenzie diceva, beh, sai, in fondo a me mi ha paragonato, adesso non mi ricordo a quale altra grande artista. Essere lambiti dal raffinato critico, anche se ti segava le gambe, era comunque avere uno sdoganamento, era entrare nel circolo delle menti che contano. Sentiamo Tonia. Tonia, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi per dare la possibilità di ascoltarmi. Niente, dicevo che spesso si sente dire che la televisione fa quello che la gente vuole, che il popolo gradisce, a proposito anche di Auditel, ma io credo che non sia affatto così. Cioè la gente viene propinato, e quando si accende la televisione non è che abbiamo scelto di guardare quel programma o quell'altro, c'è quello, e non è affatto vero che col... Aspetti, Tony, lei quanti programmi ha a disposizione il suo televisore? C'è Sky, c'è... Quindi ne ha centinaia, ne ha... Ne abbiamo tante, ne abbiamo tante, però anche lì abbiamo scelto, per esempio per quanto riguarda Sky, soltanto i programmi sportivi, per farle un po'... Perché a casa sua guardano soltanto quelli, ma ce ne stanno veramente tanti. Ce ne sono veramente tanti, però fruire la televisione significa che devi anche comunque avere del tempo a casa. Oggi per una società che bene o male sia quasi la maggior parte del tempo fuori di casa, quando si arriva, insomma... quello che c'è a disposizione in quell'ora, in quel determinato momento. Quindi non esiste più, diciamo, un evento e una liturgia comune di fronte alla televisione. Una volta la televisione si basava su un canale, poi su due, poi su tre, poi su sei canali. Oggi che ci basiamo su una base di 300 canali è un po' difficile dire cosa guardano gli italiani in questo momento, qual è il programma che piace più agli italiani. L'idea che stiamo cercando di mettere a fuoco insieme a Luca Martera è che in realtà esista un aspetto fittizio, surrettizio, non più esistente, di tenuta in vita di una televisione che non esiste più. Oggi le classifiche Auditel a chi si riferiscono? Chi è che ancora guarda la televisione in prima serata? Quanto ancora avrà di speranza di vita chi guarda la prima serata e chi certifica quello che è l'indice di attenzione medio dell'italiano della televisione? Luca? Quello che dici è sacrosanto, soprattutto mi fa venire in mente la filiera misteriosa di chi fa TV, perché tra i pubblicitari e i televisivi ci sono di mezzo i cosiddetti centri media, che sono quelli che interpretano per per il commendatore, per chi caccia i soldi per lo sponsor, i gusti del pubblico. Il problema è che questi sono ancora ancorati a vecchi schemi, non hanno ancora capito che il pubblico va verso altri lidi, limiti che ancora non si sanno, non sono stati ben definiti, ma la ragione è solamente puramente commerciale, naturalmente. Fa ancora comodo, forse ancora per qualche anno lo farà comodo. Sì, ma scusa, proprio per tagliare con l'accetta un pensiero che probabilmente meriterebbe di avere una maggiore articolazione. Quando il mondo dell'imprenditoria si accorgerà che in realtà mettere soldi nella televisione non va più a toccare se non persone che hanno bisogno di pannoloni, cateteri e adesivi per dentiera, cosa accadrà? Bella domanda. In Italia qualcuno ha fatto una statistica molto precisa: il club dei 4 milioni. In Italia su 60 milioni di abitanti ci sono solo 4 milioni di persone che leggono regolarmente giornali, libri, comprano tecnologia più avanzata, non solo l'iPod, e quindi vengono sfiniti questi 4 milioni da una serie di messaggi, perché tutti gli altri sono il ventre molle, come dire. E quindi se questi 4 milioni si spostano altrove, perché già la TV di fatto digitale terrestre è superato, è nato morto. C'è la TV online. C'è un altro zombie di cui si è molto parlato, ma che in realtà vaga in maniera molto triste e imprecisa in lande desolate. La vera ragione, secondo me, è la classica ed eterna commissione tra pubblico e privato in Italia. In Italia ci sono cosiddetti top spender, cioè i grossi inserzionisti, sono più o meno una decina, sono soprattutto telefonini, naturalmente, automobili, eccetera. Questi investono quantità di milioni ogni anno notevoli solo per, non dico per questioni di basso clientelismo, ma quasi, insomma. E quindi si perpetua un sistema abbastanza morto, poco dinamico e poco basato sulla concorrenza soprattutto. Quindi l'aspetto faraonico che avevamo accennato all'inizio è ancora l'unica ragione dinastica per cui la televisione generalista esiste e è al centro, per modo di dire, delle attenzioni. Oggi i giornali parlano di Beniamino Plagio perché è stato un grande, ma in realtà raramente si dice che la materia che lui trattava non esiste più, non avrebbe più ragione di essere né celebrata né commentata. Email melog@radio24.it. Melog 2.0. Questo concorso Cuore Toro 1985 rischia di non farsi. No, questo non ce lo devi dire. Non arrivano le cartoline, non arrivano le lettere, come si fa? Manco noi telegramma. Stiamo preparando il Music Show, che è una bellezza, di molti artistici sono aderenti con noi. Vogliono partecipare al Music Show che faremo. C'ho la locandiera. Ma come si spiega questo fatto che a tutti scrivono? Diciamo la verità. A cani e sorci. E porci si dice, scusi. Se, non lo voglio dire quella valora così. Ma è uguale, tanto sorci e porci. È uguaglio. 80024, stiamo un po' amaramente, un po' con la nostra possibilità di essere leggeri, non sarà quella di Beniamino Placido, ma in fondo ci conforta abbastanza, ci sostiene, parlare di televisione come ormai un organismo inesistente, un ectoplasma, un termine che pensate che io coniai una ventina d'anni fa, quanto mai oggi calzante parlare di ectoplasmi, cioè di illusioni di umanità, di esistenza evocati da un medium, per parlare della televisione, dei suoi fasti e dei suoi nefasti. Quelli della notte, Renzo Arbore, ne parlavo prima con Luca Martera, che è qui in studio con me, rispetto ai miti celebrati dentro la televisione, miti di fronte ai quali ci mettiamo tutti sull'attenti, ci teniamo il cappello, ma la nostra televisione è ancora incentrata sulla speranza che questi miti possano generare qualcosa di nuovo. La cosa è un po' difficile, perché dagli anni 90 in poi il professionismo in televisione è stato, ha ceduto il passo al dilettantismo, che è diventata un'industria, un mercato che alimenta appunto sponsor e indotto vari con comparsate, insomma. Prima parlavamo appunto del fenomeno del pubblico pagante e non, che parte in comitiva da tutta Italia, e io immagino questi reclutatori, questi addetti ai casting paragonabili a quelli di Cinecittà di un tempo, quelli beceri che naturalmente devono creare questo entusiasmo per andare a vedere chi. Carlo Conti. Ti racconterò un episodio. Ho carpito giorni fa la confidenza di alcune persone che erano costrette a montare uno speciale televisivo che sta andando in onda in questi giorni. il cui ambiente è particolarmente lussuoso perché è dedicato a una delle più alte e più elitarie attività dell'espressività artistica, in cui il conduttore è sempre in smoking e cravattino, in cui gli ospiti sono sempre in costume di scena, in cui il pubblico, le rare volte che hanno fatto una grande fatica proprio in questa direzione e che la macchina passa sul pubblico, si vedono dei poveri anziani con lo scialletto, con le pantofole, un po' sembrano il nonno Simpson che gira sempre con le pantofole. Mi è stato detto che il budget dato al subappalto che si occupava del casting era talmente risicato che sono stati costretti ad andare in giro per centri anziani, hanno razzolato un po' di vecchietti, ma vestiti così come erano, per andare a fare la spesa, per andare a giocare a bocce, e li hanno portati nello studio. L'hanno lì tenuti congelati un paio di giorni, dando panini e flebo di sostanze inebrianti, però il risultato è stato questo, patetico. Un finto pubblico che in realtà non può avere nemmeno quella partecipazione tarocca a cui tu alludevi, perché non ha proprio le physique di roll, è messo lì in attesa del momento estremo, vengono messe nel congelatore della televisione. Ma oltre a chi la fa oggi la televisione, cioè il pubblico, parliamo anche della sostanza. Tre quarti della televisione italiana è solo radio, nel senso che sono solo parole. Poi in particolar modo la RAI compra tre quarti della sua programmazione, tutto il resto sono TG oppure rubriche di radio illustrata. Cioè, quindi chiediamoci anche dov'è l'originalità. Cioè, persone sedute su divanetti che intervistano altre persone. Questo è anche un modo per, come dire, la televisione è come l'acqua, quindi va 24 ore su 24, bisogna riempire. Quindi il discorso è sempre il solito, è un mercato, basta, appunto, non ci sono tante altre questioni. Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno, volevo fare un intervento, diciamo, basato su due aspetti. Il primo è che la televisione, a mio avviso, oggigiorno è configurabile come uno strumento di battaglia, no? Perché alla fine quello che si evince è sempre un allarmismo. Guardiamo la crescita del costo del petrolio, che ogni giorno era spinta in televisione. Scusi, la interrompo, io trovo che in realtà se c'è uno spirito comune condiviso alla televisione è quello di tranquillizzare e rassicurare. Lei vede questo allarmismo in televisione? Proviamo a guardare ad esempio la vicenda dei vaccini anti-influenzali. Ah, vabbè, ma non oggi, è solo la televisione responsabile, questo ma tutti. Per carità, però oggi i principali paesi europei li vendono perché non servono più. Quindi tutto l'allarmismo fatto precedentemente, che scopo aveva? Non aveva. Io non li ho comprati, però ognuno si lascia influenzare come vuole dalle campagne. C'era un programma molto spiritoso che io seguo, una radio vostra concorrente, non faccio il nome. Però prendevano in giro questo allarmismo dicendo: oggi la signora, mia cognata, la signora Lella, ha avuto un raffreddore, allarme raffreddore, pronti 70 milioni di vaccini per il raffreddore. Cioè, è una cassa di risonanza talmente importante che a forza di battere sempre sullo stesso tasto perde l'interesse, quindi la gente ormai non lo guarda più. E quindi concordo anche con quello che diceva il suo ospite prima, che tre quarti delle trasmissioni televisive sono fatte in maniera radiofonica, e secondo me la radio è l'unico vero strumento che ritornerà in auge, così come quando fu inventato era di gran lunga, come dire, quello più atteso, perché lasciava spazio all'immaginazione. Comunque guardi, la radio, grazie a Dio, gode di ottima salute. In queste mutazioni, in queste cannibalizzazioni, ha seguito la sua strada e, come vede, ancora siamo qui e ancora parliamo, ma non siamo antitetici alla televisione, solo che noi possiamo osservarla, ragionarne, parlarne. Fabio. Sì, ciao Nicoletti. Io volevo intervenire riguardo alla questione della pubblicità, che poi, quando si accorgeranno che il pubblico si ridurrà sempre di più, scapperanno un po', no? Quindi, ma già lo sanno che in realtà, come ha spiegato Luca Martera, è un sistema integrato un pochino più complesso e articolato rispetto a dire faccio un investimento perché ho dei ritorni pubblicitari. Esatto, si mantengono in vita comunque le varie possibilità di interazione. Diciamo che il mercato dell'immaginario è l'ultima delle preoccupazioni, come si riempie l'immaginario del pubblico. Molti meno soldi, quindi forse stimolo l'inventiva per poter non sprecarli in programmi allucinanti. Guarda, l'inventiva non è più una merce ricercata. Luca Martera, che è un autore, quindi sta molto più vicino a me, ai meccanismi della televisione, mi raccontava poco fa di un programma che stanno facendo, banalissimo, con delle persone che parlano con altre persone, che per farlo hanno dovuto comprare un format inglese, perché se non c'è un format inglese, un format preso da un paese straniero, nessuno mette soldi su un programma televisivo. Luca. Sì, questa è una pratica che ormai è diffusa da almeno 20 anni. Io, aspirante autore, se voglio convincere un direttore di rete a farmi fare un programma, devo avere delle garanzie. Questa garanzia è data dal successo all'estero, che può essere del pubblico finlandese come del pubblico sudamericano, su un programma che può essere anche l'ennesima in format tipo La Corrida, I Dilettanti e Lo Sbaraglio, quindi zero inventività. E questo solo perché sempre si ritorna lì, sono questioni di mercato. Il pubblico finlandese lo ha seguito in massa, perché non dovrebbe seguirlo anche quello italiano? Fabio, lei ha qualcosa da aggiungere? Visto che sì, volevo fare un esempio. Sì. Per esempio, il mio piccolo vede Baby TV, no? Su Sky. Sì. È una televisione dove fanno anche, secondo me, per i bambini piccolini, cioè un anno e mezzo, due, dei programmi belli, insomma, educativi. È mirato per i bambini, sì, lo conosco. Non c'è un microsecondo di pubblicità. Cioè, voglio capire come fa un canale del genere, che deve comunque pagare un canone, presumo, a Sky per esistere, per trasmettere. Vabbè, ma anche lei paga un canone a Sky per vederlo. Sì, ma come fanno a produrre questi programmi, a pagare i professionisti che fanno questi programmi, eccetera, gli introiti da dove gli arrivano? Era solo per capire come potrebbe essere una televisione del futuro, con una pubblicità molto più ridotta, come potrebbero trovare dei finanziamenti per fare una televisione di qualità come questi qua. Chiaro che i programmi per bambini piccoli sono abbastanza semplici da fare, però c'è dietro un buon lavoro, quello che vedo io, insomma. Quindi, è un canale di acquisto, mi sembra, soltanto con prodotti d'acquisto. Sì, ma poi comunque viene ammortizzato dal pacchetto di canali. E in genere è un canale che dà lustro, proprio perché garantisce uno zoccolo duro di telespettatori. E poi comunque non dimentichiamo che vengono finanziati da un abbonamento, non certo. da un canone. La sua ascoltatore, pagando il suo abbonamento, finanzia quel canale. Introduco adesso Piero Vereni. Vereni, buongiorno. Buongiorno, Gianluca. Antropologo, ricercatore all'Università di Roma Tor Vergata, autore di Identità Catodica, edizioni Meltemi, che più volte ha partecipato alle nostre trasmissioni. Siamo qui a menarcela, e l'hai capito benissimo perché sei vecchio del mestiere, sul vecchio dilemma su quanto ancora abbia senso parlare di televisione o definire una televisione come appannaggio comune di tutto un pubblico. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, io ho ascoltato molto, insomma, con divertimento, con attenzione, anche perche insomma ero appunto un estimatore anch'io di Beniamino Placido. Mi sembra che siano venute fuori diverse cose interessanti. Se posso, vorrei evidenziare due punti, diciamo. Uno è proprio quello, diciamo, la fine della TV generalista come macchina per produrre identità collettive, no? E lo riassumo in un brevissimo, una storiella. Un mio carissimo amico danese mi ha raccontato, quando parlavamo di televisione, il trauma subito quando lui, ragazzino, nei primi anni 80, ha visto la nascita del secondo canale televisivo danese. E quindi lui a scuola si è reso conto che non poteva più dare per scontato che il suo compagno di banco, che i compagni di classe avessero visto la stessa cosa che aveva visto lui. E quindi già questo produceva una specie di frammentazione, no, dell'unità nazionale. Ecco, possiamo dire che la televisione che produceva quell'unità di visione oggi sembra produrre esattamente l'opposto, la segmentazione delle audience è di fatto la frammentazione delle unità sociali nazionali. Però l'ultimo intervento, questo arriva a proposito del format, no? Mm-hmm. Ci consente, secondo me, di provare a ragionare un po' più, in maniera più complessa su questo tema, no? È vero, la televisione generalista è finita, però i format sono appunto pacchetti che viaggiano transnazionalmente, pensiamo al più famoso, insomma, che Grande Fratello, no? Che consente forse la riaggregazione di audience su altri piani. Io sono, ne so, un fanatico di Lost e mi vado a scaricare appena in diretta, insomma, lo vedo praticamente Lost, no? E quindi sono collegato a una comunità immaginata transnazionale di appassionati di Lost. Quindi paradossalmente, anche se la televisione ha finito completamente il suo ruolo di uniformatore, di aggregatore delle identità nazionali, oggi forse ha ancora spazio per aggregare post-identità, non so come chiamarle, insomma. Ma il paradosso è, caro Piero, che in realtà la televisione sta tentando in tutti i mezzi, anche legali, anche giuridici, di tagliare le gambe a questi suoi derivati, come se togliessero pubblico, togliessero vitalità, quando in realtà, secondo me, sono le uniche maniere e le uniche speranze che ancora di rimanere e come centrale comunque nell'immaginario collettivo. Sì, allora io penso che qua bisogna, appunto, non so se l'ho già fatto questo chiarimento con te, però penso forse va ribadito, insomma, la distinzione tra la televisione e il televedere. Allora, la televisione è quell'apparecchio, no? Quello strumento che sicuramente sta andando in soffitta, insomma, è sempre più desueto, no? E è quella, diciamo, sono, diciamo, i responsabili di quell'elettrodomestico che fanno di tutto per mantenere una centralità a uno strumento che ormai è assolutamente obsoleto. È l'hardware che ormai è in via di scomparsa. E devo interromperti, Piero, perché dobbiamo dare la linea all'informazione del traffico. Ci sentiamo tra un istante, continuiamo a parlare di televisione. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog 2.0. Cerchiamo di ridimensionare il tutto. In fin dei conti, questa canzonissima che cos'è? Uno spettacolo abbinato alla lotteria di Capodanno. Ecco, e poi Capodanno. Pensiamoci bene, Capodanno. È una parola molto importante, Capodanno, facciamo Capodanno. E se diciamo, a uno dei primi giorni del prossimo anno. Anzi, per l'esattezza, alla Befana. Grazie Corrado. Era il 1970, avete sentito, era Corrado, ancora canzonissima la lotteria di Capodanno, erano uno dei due più importanti momenti liturgici della televisione italiana. La Befana della televisione, l'apprensione di fronte al televisore con il biglietto in mano. Quale personaggio importante del pubblico sarà stato lambito dalla grande fortuna? Era il momento in cui la televisione apriva il suo sacco e dava spazio alla sua cornucopia per gratificare il pubblico degli abbonati. Beh, questo momento è passato, forse un altro segno fatale della morte, dell'inesistenza, della catalessi irreversibile a TV generalista. Ce ne parla Fabio Felici. Fabio Felici, buongiorno. Buongiorno a voi. Altro ospite noto di Melog, direttore dell'Agicos, agenzia specializzata nel settore dei giochi. Tu Fabio, quest'anno hai per primo gettato un campanello d'allarme che oggi, questi ultimi due giorni, ha riempito le pagine dei giornali. Non esiste più l'idea della lotteria televisiva. Dacci qualche dato. Sì, non esiste più l'idea della lotteria televisiva, infatti la lotteria quest'anno ha avuto un crollo, è stato veramente un flop, perdendo praticamente oltre il 30%, il 37% dei biglietti in meno sono stati acquistati, il che vuol dire incassi per lo Stato di meno 35 milioni di euro. Cosa significa secondo te? Che il pubblico che prima comprava questi biglietti è morto, sta sulla sedia a rotelle, non può più uscire di casa, qual è il motivo? Guarda, forse qualcuno erroneamente pensa che sia un problema della crisi, ma la crisi, diciamo, lambisce questo settore. È invece un problema di televisione. State parlando di televisione, è un problema di televisione. Tu ci hai insegnato quelle volte, sei venuto a Palladino, che ci sono degli accaniti giocatori in Europa, sono proprio gli italiani. Addirittura il digital divide, che ha sempre stato l'ombra nera che aleggiava sulla nostra cultura nazionale, sembra colmato. Gli italiani giocano in internet come nessun altro loro cugino europeo. Esattamente, beh, solo su internet siamo a livelli di crescita entusiasmanti, siamo oltre i 4 miliardi giocati, ma noi, lo ricordo, spendiamo 900 euro a testa, bambini, anziani, malati compresi, cioè tutta la popolazione 900 euro a testa per tentare la fortuna, il che ci pone tra i primi tre paesi al mondo per spesa pro capite per il gioco. Per questo dico che la crisi lambisce questo settore e il problema della Lotteria Italia, un calo così forte, cioè così pochi biglietti non si registravano da 30 anni, ma 30 anni fa eravamo altre persone, c'erano altre persone a seguire la lotteria, dovuto al fatto che la televisione non ha fatto da traino. Sentiamo Anna su questo problema. Anna, buongiorno. Buongiorno. Ma guardi, io appartengo al pubblico delle dentiere, avendo 70 anni, dentiera che peraltro non ho. Però non si sente, infatti, ha una pronuncia perfetta. Ricollegandomi a quello che dice il suo ospite, mi sembra che quest'anno la televisione, la lotteria, sia stato un fallimento perché è abbinata a questo programma che è assolutamente inguardabile. Mi sembra che l'anno scorso fosse abbinata, se non sbaglio, a Ballando con le Stelle. Sì. Forse era un po' meglio. Io quindi lei è il pubblico tradizionale della TV generalista. Adesso io non faccio molto testo perché io avevo telefonato per dire che io la televisione la guardo perché guardo i film, perché tutto il resto mi sembra inguardabile, a parte Exit e Piroso, però il resto è assolutamente inguardabile. E avendo 70 anni mi ricordo una televisione dei primi anni della televisione, ma anche lì se apro il pozzo dei ricordi, mi sembra di ricordare La Show Raddoppia come fenomeno importantissimo, e poi gli sceneggiati, il teatro televisivo che... Sì, beh, tutti ricordano le cose che fa bello ricordare, diciamo la verità. Io ricordo delle cialtronate meravigliose che hanno riempito di gioia le mie giornate, sennò sembra che la televisione sia stato soltanto un consumo di raffinatezza culturale per gli italiani. Mi sono divertito tanto anche a guardare cose di altro tipo. Sentiamo comunque Fabio Felici su quello che dice l'ascoltatrice, testimone del decadimento del contenitore della lotteria. Esattamente, mettere quest'anno Max e Giusti con un programma quotidiano, quindi più spalmato, di fronte a una corazzata come il Caramba che fortuna di Raffaella Carrà, il confronto non ha retto, ma diciamo che la Lotteria Italia fa parte della nostra tradizione, esiste dal 45, è una lotteria nazionale chiamata Italia, quindi avevamo bisogno di tornare un po' alla tradizione, alla lotteria, non dico la lotteria abbinata a Canzonissima, che erano anche quelli tempi meravigliosi, però una lotteria che avesse, diciamo, un padrone potente. La RAI qualche anno fa chiamò per risollevare la lotteria Paolo Bonolis, il re media della TV, e la lotteria fu di nuovo la Lotteria Italia di una volta. Quindi non hanno voluto fare un investimento intelligente in questo settore. La lotteria è mancato il palinsesto forte nel weekend della RAI, è mancato questo palinsesto forte, ne ha risentito, perché lo zoccolo duro della lotteria il biglietto l'ha comprato, cioè alla fine 15 milioni di biglietti, 11 milioni e 6 di biglietti sono stati venduti, ma quello sono le persone che avrebbero comprato il biglietto a prescindere dalla TV. Sono mancati gli altri 6-7 milioni di biglietti venduti perché è mancato il treno. La gente non si è identificata, la gente che segue la lotteria non si è identificata in una trasmissione e non ha avuto chi gli diceva vai a comprare il biglietto. Grazie Fabio Felici, direttore dell'Agico. Sentiamo Leiba, ho pronunciato bene? Sì, è stato pronunciato bene. Allora Leiba, lei fa parte di quello zoccolo dei 4 milioni di cui parlava prima Luca Martera. Esatto, una di quelle persone che ha il computer e con tecnologia non solo l'iPod. E io sono ormai 9 anni che non ho la televisione. Ho completamente smesso di averla in casa e di guardarla. Non hai il televisore, però guarda la televisione, diciamo così con esattezza. Sì, in effetti sì. Utilizzo i servizi di streaming ogni tanto della RAI, per esempio per guardare report o trasmissioni di questo genere. Ma è comunque anche quello molto raro, alla fin fine. All'inizio trovavo il non avere la televisione molto fastidioso, perché il classico ritrovarsi con gli amici che ti raccontano le trasmissioni andate in onda il giorno prima e tu non le hai viste, non sei informato, non sei aggiornato. Però andarsela a rivedere oggi è semplicissimo. Sì, adesso è semplicissimo. Anni fa, quando non esisteva la banda larga, non era fattibile una cosa del genere. Con i modem di allora era già difficile scaricarsi un singolo file musicale, quindi era quasi impossibile scaricarsi. Quindi lei, in conclusione, Piero Vereni, vorrei su questo ultimo ascoltatore tu facessi una riflessione. Abbiamo visto praticamente casualmente i due estremi, la signora legata alla TV tradizionalista che ancora guarda i vecchi cari programmi della televisione di Stato e ha una punta di nostalgia per ciò che non c'è più, e l'ascoltatore che dice non avere più il televisore ma pur nonostante questo è contaminato quotidianamente dalla televisione. Sì, è quello il punto proprio, alla tele visione intesa come televedere, no? Non riusciamo più a sfuggire, insomma, non è neanche detto che sia interessante farlo, insomma, no? In fin dei conti è un'opportunità enorme quella di potersi vedere immagini da tutto il mondo, del passato, del nostro e altrui, insomma, quindi a questo non si può più sfuggire. Poi c'è chi ancora si attarda, e non mi riferisco agli spettatori, mi riferisco a chi programma, a chi concepisce poi il futuro della tecnologia della comunicazione visiva, insomma, chi si attarda ancora su canali che probabilmente sono destinati a esaurirsi e chi invece sta cercando di programmare appunto le forme della visione, insomma, nel futuro. Quindi chi ma investe... Non sei d'accordo di rovesciare il grande anatema di Popper? La televisione va messa in mano soltanto a persone che abbiano una patente, perché tanta la forza che può avere e il potere fascinatorio che è pericolosissima. Oggi la patente dovrebbe essere data perché chi confeziona l'immaginario di qualunque essere umano, sia esso anziano, giovane o adolescente o di mezza età, deve comunque avere una sensibilità e una apertura poetica, e uso una parola che potrebbe sembrare una bestemmia, sufficiente per farlo. Non deve essere oggi un agente immobiliare o un signore mesciato che è soltanto capace a organizzare cose con amici degli amici. Sì, però io sono anche, diciamo, da questo punto di vista convinto che vale la pena di tornare alle cose iniziali che diceva Luca Martera su YouTube, no? Siamo tutti broadcaster potenziali, insomma, no? E poi è più o meno, diciamo, il consumo stesso che determina chi sia un buon broadcaster e chi non, insomma. Io ho alcuni canali su YouTube che seguo abbastanza regolarmente, insomma, che trovo soddisfacenti, ecco, e molti di questi sono, diciamo, utenti finali che hanno deciso di riaggregare materiale, pubblicare materiale loro, quindi già c'è quella sintesi felice che noi abbiamo l'impressione che l'avremmo fatta tale quale noi su YouTube. Non occorre vedere tutto un programma, ma il momento clou, quello che a noi interessa vedere. Sentiamo un attimo Luigi, prima della chiusura. Luigi? Pronto? Sì, eccomi. Senta, la mia era una curiosità, sempre appunto parlando di televisione. Cioè, nel momento in cui viene decisa la programmazione cinematografica, non so, chi è che la decide? In base a che criterio? Ma dove questo? Sulla TV di Stato, parliamo appunto di Stato. Della RAI. Cioè, voglio dire, io non è che sono tanto vecchio, cioè 46 anni, però ricordo, insomma, che una decina d'anni fa venivano trasmessi dei bei film, prima serata, generalmente. Invece adesso tutto questo non succede. Lei parla però di periodi di assoluto monopolio del film in televisione, il film del lunedì, il film del giovedì. Oggi c'è una tale offerta e una tale variegata maniera di vedersi film, poi per non parlare di quelli che se li scaricano dalla rete, che questa scelta, qualunque essa sia, sarebbe del tutto inefficace, non cambierebbe nulla. Luca, cosa ne pensi? Ah sì, sulla TV generalista arriva stremato il film. Chi guarda quando arriva un film alla RAI ormai... Dopo 10 passaggi sul satellite in edicola, legato con una rivista, chi vuole vedersi il film in genere ha mille modi oggi per guardarselo prima e meglio. Per paradosso lo vede spezzettato pure dalla pubblicità, che una volta nemmeno accadeva nel servizio pubblico, quindi che senso ha più? Piero Vereni. Scusami, mi ero perso un attimo a vedere se eri ancora lì o no. Piero Vereni, su questa ultima lacrimosa vicenda del film stremato, il nostro ascoltatore ancora si chiede chi decide i film. Mi rendo conto quanto sia ormai fuori dal tempo anche la domanda in sé. Sì, ma la programmazione in generale, no? Però vedi, torna una cosa che abbiamo già discusso altre volte, no? Questa specie di nostalgia necessaria, insomma, è come se anche il parlare oggi comunque di qualunque tecnologia ultramoderna ci spinga inevitabilmente ad essere nostalgici. Basta che una cosa sia appena passata per farla diventare subito migliore. Questo è interessante come fenomeno sociale. Bene, la nostalgia, diciamo che ancora la linfa che tiene in piedi la vecchia televisione, che secondo noi è un cadavere che ormai cammina per forza di inerzia. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Radio 24. La passione si sente.